giallo e nero. Tra i misteri della cronaca con Daniele Biacchissi. Criminalità a Roma nasce tra i viottoli che costeggiano lunghe file di case popolari, nelle piazze senza verde, nei quartieri senza servizi nati negli anni della speculazione edilizia e sparsi nelle periferie. Anni 50, la malavita che si muove a Roma è cosa diversa da quella milanese. Non c'è il solista del Mitra tipo Luciano Lutring, nemmeno la banda di Via Osoppo. Il malvivente locale è essenzialmente un ladro, un borseggiatore. Mai un'arma utilizzata, nessuno sparo. I delitti in quegli anni possono però scuotere perfino le alte sfere della politica, come nel caso Montesi, come ricorda ad Andrea Viali Enzo Rava, giornalista e scrittore. Questa Roma qui è cambiata veramente per la prima volta col caso Montesi. Per la prima volta la gente si è rivoltata contro il governo, non per motivi politici, cerchiamo di capirci. Ma perché ha scoperto che lì non c'era soltanto l'autorità, ma c'era anche il potere e l'abuso. Come sa, quella storia è nata con l'omicidio di una ragazza che è stato imputato al figlio di un ministro. Poi è risultato, anni e anni e anni dopo, che erano tutte chiacchiere, il figlio del ministro non c'entrava per niente, era una sorta di faida all'interno di un partito per fare uno le scarpe all'altro. Però quella volta la gente che ha veramente cambiato il voto, l'orientamento politico è cambiato perché per la prima volta la gente di Roma ha smesso di essere semplice plebe per diventare cittadinanza, gente che giudica il potere e lo giudica male, lo giudicava colpevole anche se il potere in quell'unico caso era innocente. Negli anni 60 avviene la prima svolta. 17 febbraio 1967 una rapina finisce male davvero. I fratelli Menegazzo, gioiellieri, vicentini, trasferiti da anni nella capitale, vengono uccisi da alcuni malavitosi con 4 colpi di arma da fuoco. Roma è sconvolta, incredula. Mai prima di allora, dicevano in questura. Roba da milanesi, affermavano i giornalisti romani come Enzo Rava. Una città estremamente cordiale, la città popolare, la Roma ancora piena di passioni, di ardori, di allegria, anche se sopra c'era uno strato, chiamiamolo così, ministeriale. In questa situazione i delitti che avvenivano erano delitti individuali, di persone colte da passioni, le più diverse, l'avidità, l'odio, antichi rancori, i peccati capitali, insomma, no? E questa era Roma d'allora, che è andata via via cambiando dopo gli anni 50, quando è cominciato ad arrivare il cosiddetto miracolo economico, il quale ha in qualche modo, come del resto è tipico della modernità, ha in qualche modo cancellato tutti i legami di vincoli, di solidarietà, di comunità, e via dicendo, trasformando ognuno di noi sempre di più in un singolo in lotta con il resto del mondo. Ora però, in quegli anni che vanno fin quasi al 70, tutti gli episodi di crimine erano episodi personali. Una persona uccideva un'altra perché, non so, dico, questa qui l'aveva rifiutato il suo amore o perché voleva portare via i soldi. Io mi ricordo che un vicequestore in pensione era rimasto sbalordito quando si è trovato di fronte al delitto, insomma, all'incursione gangsteristica di via Gatteschi. E ha detto, ma io non me lo sarei mai aspettato, io sono vissuto 20 anni, non so quanti fosse, tra, non so, gente che si accoltellava per questo, per quell'altro, bulli, ladri, d'appartamento, ecco, ma delitti

La strage successiva è quella dell'antivigile di Natale del 1984 sul treno che viaggia tra Firenze e Bologna. Questa volta Pippo Calò non riuscirà a farla franca e sarà condannato all'ergastolo. Intanto nel corso degli anni all'interno della banda avevano preso piede faide cruente che riassestavano continuamente gli equilibri di potere. I capi si erano dedicati a una spietata mattanza per eliminarsi a vicenda. Finché nei primi anni 90 la disgregazione della banda, almeno nella sua annosa e tradizionale configurazione, era un dato acquisito. E oggi? Chi decide gli affari criminali a Roma? Quali sono le mafie che si spartiscono il bottino? Nella capitale, sul piano malavitoso, ci sono entrati tutti. La mafia russa, quella albanese, cinese, sudamericana, Cosa Nostra, Camorra, 'Ndrangheta calabrese. E poi? Siamo certi che la banda della Magliana, o meglio, una criminalità autoctona romana, sia del tutto sparita con le decine di delitti degli anni 70 e 80? Ancora oggi la cronaca di Roma ci ripropone schemi e modalità presi dal passato. Ad esempio, 4 omicidi in pochi mesi possono essere soltanto considerati semplici coincidenze.